siam soli, nivi alcun che ci senta. Tu sai che l'anno è scorso da quell'infausta notte, che il continuo bel fiore invaso da una pazza gelosia mi trafisse spietato. E dall'istante, credendomi già morta, mi lasciò, sì, partì. Che brutto caso! In ripensarlo solo mi scappano le lacrime. Oh, caro servo, sai pur che ha solo oggetto di ritrovar l'amante in queste spoglie teco mi indussi andar a minga e ognuno mio cugino ti crede. Ma qui vi giunto appena si preparan per me ma quella, perdonate, mi pare frenesia, già che la sorte già fatto capitare in questo ben soggiorno, ove dal podestà voi siete amate. Questo motivo appunto mi sprona a partire, vedermi a stretta i sospiri, le smanie e rimproveri a dire in ogni istante d'un importuno amante. Subito partire, uomini sanno amar, non da fuggire. E dicerò il